c'è chi gira le monsoda, chi li bussin senza la B. Se la ingenaula bingo vinco e punto virgola. Finala profumo, anzi fragranza, dalla di pollo e passa la bollo. Bolloni che si burlano di un vecchio catorcio, spilorcio. L'arcidiavolo a tavola con una razza di Ratzinger, c'è il Papa, c'è il Papato, c'è Peppone, Don Camillo, Sardella, non direbbe meglio Ganja. Chi si arrangia con arrangiamenti a tratti proverbiali. Fatti non foste per dirigere animali. Meglio botta sulle donne mezza piene di neuroni, se bevessi 10 litri di peroni, era pure diverrebbe una franchista curandera degli allori. Torcioni che si burlano di grotte, crodini sulle banconote, mentre direttrici espellono, le cicatrici dicono: lasciateci nel segno. Non c'è raggio di sole in questo giorno di ciclistica, al massimo cerchioni o raggi rotti che ti manda un po' di vista al muro. Gridavi, ora c'hai le quattro ruote più forate di un modello di Versace. Fuori moda, fuori tempo, io ti inseguo come un cane lo scoiattolo. Ti insegno come padre insegna al discolo. Ti insegno della croce, padre, madre, figlio, figliolo. Se ho un pezzo di Mattel che non si è rotto, se ho un pezzo di pupazzo ricomprato a poco prezzo, al muro! Qui si tira a fare pugni e qui si semina la punta 5 stelle, LBR nell'hotel sono a prezzo. Chi mai t'ha conosciuto, cara amica, gioia bella? T'ho visto e t'ho perduto. Sarò muto fino a tardi al tuo rientro, o rientro e dirò al mondo che t'ho perso.